Bibbia Martini, primo libro dei re, uno Davide spento guati dalla vecchiezza e riscaldato da Abitag, la quale si mantiene casta. Adonia cerca di occupare il regno, ma Betsabea, seguendo i consigli di Nathan, ottiene da Davide che Salomone sia unto re, la qual cosa, avendo udita Adonia, si fugge. Il re David era vecchio, e di età avanzata, e per quanto si coprisse, non poteva riscaldarsi. Gli dissero pertanto i suoi servi, si cerchi per il re signor nostro una vergine giovinetta, la quale si stia col re, e lo riscaldi, e dorma con lui, e renda il calore al re signor nostro. Cercarono adunque in tutto il paese d'Israele una fanciulla avvenente, e trovarono Abisag di Sunam, e la menarono al re. E la fanciulla era bella oltremodo, e dormiva col re, e lo serviva, ma il re non la conobbe. Ma Adonia figliuolo di Aggit era montato in superbia, e diceva, io sarò re. E avea de cocchi, e de soldati a cavallo, e 50 uomini per sua scorta. E il padre suo noi riprese giammai, ne disse, perché fai tu questo? Ora Adonia era anch'egli bello assai, e fratello secondogenito di Assalonne. Ed egli se la intendeva con Joab figliuolo di Sarvia, e con Abiatar sommo sacerdote, i quali favorivano il suo partito. Ma il sommo sacerdote Sadoc, e Banaia figliuolo di Ioiada, e Nathan profeta, e Semei, e Rei, e il Nerbo e il milizie di Davide non erano per Adonia. Adonia dunque, avendo immolati degli arieti, e dei vitelli, e grosse vittime d'ogni sorta vicino al masso di Zoelet, che era da presso alla fontana di Rogel, invitò tutti i suoi fratelli figliuoli del re, e tutti gli uomini di Giuda servi del re. Ma non invitò Nathan profeta, né Banaia, né i più valorosi soldati, né Salomone suo fratello. Or il profeta Nathan disse a Betsabea madre di Salomone, non hai tu sentito dire, che regna già Adonia figliuolo di Aggit, e il signor nostro Davide lo ignora? Ora dunque vieni, lasciati consigliare da me, e salva la vita tua, e quella di Salomone tuo figliuolo. Va, e presentati al re Davide, e digli, non è egli vero, o re signor mio, che tu facesti giuramento alla tua serva, e dicesti, Salomone tuo figliuolo regnerà dopo di me, ed egli sederà sul mio trono? Perché adunque regna Adonia? E tu non avrai finito di dir queste cose al re, quando io sopraggiungerò, e confermerò il tuo dire. Entrò adunque Betsabea nella camera del re, or il re era vecchio assai e Abisag sunamite lo serviva. Betsabea si inchinò, e adorò il re. E il re le disse, che domandi tu? Ed ella rispose, e disse, signor mio, tu giurasti alla tua serva pel signor Dio tuo, che Salomone mio figliuolo regnerebbe dopo di te, e sederebbe nel tuo trono. Ed ecco, che a quest'ora regna Adonia, senza che lo sappi tu, o re signor mio. Egli ha immolati dei bovi, e delle grasse vittime, e degli arieti in gran numero, e ha invitati tutti i figliuoli del re, e anche Abiatar sommo sacerdote, e Joab capo dell'esercito, ma non ha invitato Salomone tuo servo. Frattanto, o re signor mio, gli occhi di tutto Israele sono rivolti verso di te, affinché tu dichiari chi debba seder sul tuo trono dopo di te, o re signor mio. E avverrà, che quando il re signor mio si sarà addormentato co padri suoi, saremo io, e il mio figliuolo Salomone, che peccatori. E mentre ella parlava tutt'ora al re, giunse Nathan profeta. E fu detto al re, e qui il profeta Nathan. E quando egli fu entrato al cospetto del re, e lo ebbe adorato chinandosi fino a terra, disse Nathan, Signor mio re, hai tu forse detto, regni Adonia dopo di me, ed egli segga sopra il mio trono? Però che egli è andato oggi ad immolare dei bovi, e delle grasse vittime, e degli arieti in gran numero, e ha invitati tutti i figliuoli del re, e i capi dell'esercito, e Abiatar sommo sacerdote, e questi mangiando, e bevendo con lui, hanno detto, viva il re Adonia, egli non ha invitato me tuo servo, né il sommo sacerdote Sadoc, né Banaia figliuolo di Ioiada, né Salomone tuo servo. Egli è stato dato dal re mio signore un simil comando, e non hai tu dichiarato a me tuo servo chi fosse quegli, che doveva sedere sul trono del re mio signore dopo di lui. Ma il re Davide rispose, e disse, chiamatemi Betsabea. Ed essendo ella venuta dinanzi al re, e stando in sua presenza, il re giurò, e disse, viva il Signore, il quale liberò l'anima mia da ogni travaglio, come io giurai a te pel Signore Dio d'Israele, e dissi, Salomone tuo figlio regnerà dopo di me, e sederà sul mio trono in mia vece, così oggi io farò. E Betsabea, chinata la faccia sino a terra, adorò il re, e disse, viva il Signor mio Davide in eterno. Disse poi il re Davide, chiamatemi Sadoc sommo sacerdote, e Natan profeta, e Banaia figliuolo di Ioiada. Ed essendo questi venuti al cospetto del re, disse loro, prendete con voi i servi miei, e mettete Salomone mio figliuolo a cavallo sopra la mia mula, e conducetelo a Gion. E ivi lo ungano Sadoc sommo sacerdote, e Natan profeta il re d'Israele, e suonerete la tromba, e direte, viva il re Salomone, e tornerete dietro a lui, ed egli verrà a porsi a sedere sul mio trono, e regnerà in mia vece, e io gli comanderò di reggere Israele, e Giuda. E Banaia figliuolo di Ioiada rispose al re, e disse, così sia, sia questa parola del Signore Dio del re mio padrone. Come il Signore fa col re mio padrone, così sia egli con Salomone, e innalzi il suo trono anche al di sopra del trono del re mio signore Davide. Andarono adunque Sadoc sacerdote, e Natan profeta, e Banaia figliuolo di Ioiada, e i Ceretei, e i Pneletei, e misero Salomone sulla mula del re Davide, e lo menarono a Gion. E il sacerdote Sadoc prese il corno dell'olio dal tabernacolo, e unse Salomone, e suonaron la tromba, e tutto il popolo disse, viva il re Salomone! E tutta la moltitudine andogli dietro, e una gran turba suonava dei flauti, e facevano festa grande, e la terra rimbombava dalle loro acclamazioni. E ne punse il rumore ad Adonia, e a tutti i suoi convitati, e già era finito il banchetto. E Gioab avendo sentito il suon della tromba, disse, che vuol dire lo strepito della città, che è in tumulto? Mentre egli così diceva arrivò Jonata figliuolo di Abiatar sacerdote, e dissegli Adonia, vieni, però che tu sei uomo di valore, e che porta buone novelle. No però che il re David nostro signore ha dichiarato re Salomone, e ha mandati con lui Sadoc sacerdote, e Natan profeta, e Banaia figliuolo di Ioiada, e i Ceretei, e i Feletei, e lo hanno messo sopra la mula del re. E Sadoc sacerdote, e Natan profeta lo hanno unto il re a Gion, e son partiti di là con allegria, onde la città romoreggia, questo è lo strepito udito da voi. Anzi Salomone già sede sul trono del regno. E i servi del re sono andati a rallegrarsi col re signor nostro David, dicendo, ingrandisca Dio il nome di Salomone sopra lo stesso tuo nome, e innalzi il suo trono sopra lo stesso tuo trono. E il re ha adorato Dio nel suo letto, e ha detto, benedetto il Signore Dio d'Israele, il quale mi fa oggi vedere con gli occhi miei lui, che siede sopra il mio trono. Quelli allora rimasero sbigottiti, e si alzarono tutti i convitati di Adonia, e Senne, andarono ciascuno per fatti loro. Ma Adonia, avendo paura di Salomone, si partì, e andò a mettersi da un lato dell'altare. E fa riferito a Salomone, e fugli detto, sappi, che Adonia, avendo paura del re Salomone, si è attaccato al corno dell'altare, e dice, Salomone mi faccia oggi giuramento, che non farà morir di spada il suo servo. E Salomone disse, se egli sarà uomo da bene, non cadrà in terra neppur uno dei suoi capelli, ma se cadrò in qualche fallo, ei morrà. Salomone adunque mandò gente, che lo condusser via dall'altare, ed egli presentatosi al re Salomone, lo adorò, e Salomone gli disse, va a casa tua. Note, 1,1, era vecchio. Egli morì di 70 anni, e un anno prima della sua morte credesi avvenuto quel che qui si racconta. Davide non era di età decrepita, e aveva avuto in sorte un temperamento forte e vigoroso, ma le lunghe fatiche in un regno di 40 anni sovente turbato da guerre esterne, da ribellioni domestiche e da altre sciagure, le molte afflizioni e le malattie, che sono accennate nei salmi avevano abbattuto e snervato il corpo, e privatolo quasi affatto del calor naturale. 1,2. Si cerchi una vergine giovinetta, e noi non dubitiamo che Davide sposò questa fanciulla, come la scrittura stessa viene a significarlo, dicendo che Davide non la conobbe, però che ciò suppone che egli avrebbe potuto conoscerla. E infatti l'aver cercato Adonia di sposare di poi questa fanciulla fu imputato a lui come delitto di lesa maestà, quasi col matrimonio di una moglie del defunto re cercasse di aprirsi la strada al trono. Ella fu adunque vera sposa di Davide, e insieme vergine, onde fu un'immagine della Chiesa. Vedi S. Girol. Episodio 2. Ad Nepot, dove assai bene dimostra, come il senso letterale è in questo luogo meno da attendersi, che lo spirituale. 1,5. Ma Adonia figliuolo di Aggit, e di quest'Aggit moglie di Davide e madre di Adonia non sappiamo qual fosse la nascita. Adonia ben veduto da molti per le sue doti naturali, essendo allora il maggiore dei figliuoli di Davide consideravasi già come successore del regno, e la indulgenza stessa del padre, il quale veggendolo darsi aria di gran principe, soffriva in silenzio la sua vanità. Questa stessa indulgenza la prese egli per un'approvazione del re alle sue pretensioni. Ma Dio per una special predilezione avea destinato Salomone, 2. Regione 12. E CE 7. 12. E Davide avea promesso a Betsabea, che, secondo la espressa volontà del Signore, Salomone sarebbe suo successore. 1,8. Semei. Questi non è quel Semei, che malediceva Davide, quando fuggendo a Salonne, si partì da Gerusalemme, 2. Regione 16. 5-6. E Rei. Alcuni credono che sia quell'Irai Araite, 2. Regione 20, e C1,21. Io e il mio figliuolo Salomone saremo che peccatori, e ci ella accenna molto sensatamente, che se Salomone non giunge al trono, e Adonia si fa re, ella sarà trattata come un'adultera, e il figliuolo come bastardo, e saranno ambedue in pericolo evidente della vita. 1,33. Conducetelo a Giom. Era una fontana a occidente di Gerusalemme, e in poca distanza dalla città. 1,39. Sadoc prese il corno dell'olio dal tabernacolo. Lo stesso olio, col quale ungevansi i pontefici, servì a ungere i re. Osservasi che, divenuto il regno ereditario nella famiglia di Davide, questa cerimonia non fu usata, se non quando la successione era in contesa. Sadoc sommo sacerdote fu quegli, che unse Salomone con l'assistenza di Natam. 1,50, Madonna. Andò a mettersi da un lato dell'altare. O dell'altare degli olocausti, che era a Gabaon, o dell'altare del tabernacolo eretto da Davide in Sion, lo che sembra più probabile.